Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Esaurite le biciclette, è arrivata l'ora dei motorini. Esaurite, come ampiamente previsto, le risorse destinate ai pedali. Migliaia di italiani sono pronti a salire in sella ai veicoli a motore grazie alla nuova tranche di incentivi del Ministero dell'Ambiente. La corsa però verso questi sconti sembra meno intensa rispetto a quella registrata per le biciclette, ma in ogni caso vedremo stamattina come sta andando, come si fa la domanda per approfittare di questi sconti e quanto sconto ci spetta soprattutto in relazione al mezzo che vogliamo comprare. Stamattina abbiamo rimesso insieme un duetto che era già funzionato molto bene nell'altra puntata. Michela Finizio, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Michela, bentornata. Buongiorno, ciao. E grazie di essere tornata appunto tra di noi. E Claudio De Viti, responsabile sezione ciclo dell'ANCMA, l'Associazione Nazionale Cicli e Motocicli appunto di Confindustria. De Viti, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, un po' più raffreddato di me, se possibile, l'assetto. Eccoci a noi allora. Il numero per intervenire per le vostre domande è l'800 24 00 24, il numero per i vostri messaggi 349 238 6666. Questo è il tema di oggi, ma noi stamattina vogliamo dare uno sguardo un po' più approfondito del solito alla seduta di borsa, perché i listini sono molto positivi. Parigi più 1,22%, Francoforte più 1,39%, Londra più 1,11%, Milano più 1,41%. C'è un forte balzo di Fiat, ma anche di Bulgari, di Exor, socio di riferimento del Lingotto, Unipol, Autogrill, tutti questi titoli guadagnano fra il 4% e il 6%, ma abbiamo, udite udite, Tiscali che sta facendo, è sospesa per la verità dalle contrattazioni dalle 11:50, più 383%. Neanche ai tempi più strabilianti della New Economy avevamo visto performance di questo tipo. Guido Maurino, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Che succede? Allora, Tiscali sappiamo che sta presentando l'aumento di capitale, intanto ti chiedo se è già partito e soprattutto come spiegano gli operatori questo rialzo incredibile e tra l'altro mi chiedo io invece perché non intervenga la Consob per bloccare completamente le contrattazioni. Guido? Allora, diciamo l'aumento di capitale è partito oggi. Noi avevamo già visto in passato delle oscillazioni così forti sugli aumenti di capitale, ad esempio penso a SEAT, Pagine Gialle o anche a Pirelli Re. Non è tutto oro quello che luccica in questo caso, perché dobbiamo fare un calcolo un pochettino più complicato. Se io avessi avuto delle azioni Tiscali venerdì che valevano circa 3,7 euro, oggi cosa avrei? Oggi avrei un'azione Tiscali che vale, anche se è sospeso, l'ultima quotazione era 1,03, e avrei un abbinato, un diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale. E il diritto vale 2,56 euro. Quindi sommando le due cose avrei che il valore sostanzialmente è circa 3,5-3,6 euro rispetto ai 3,7 che avevo venerdì. Sostanzialmente ho una perdita di circa il 4%. Sono cose che abbiamo visto spesso, diciamo, con gli ultimi aumenti di capitali, e che hanno in genere, diciamo, ragioni abbastanza tecniche. Quindi appunto tecnicamente parlando, per ribadire la questione, per un piccolo azionista che avesse già avuto la titolarità dell'azione a venerdì scorso e stamattina vede questo balzo, non è che nella realtà sta registrando questo guadagno, sta incassando questo guadagno. In realtà no, anzi addirittura una perdita del 4%, incredibile. Anche. Per cui allora oggi magari cercheremo di enfatizzare un po' meno questo rialzo, tanto proprio per non illudere tutti coloro che ci ascoltano. Guido, invece su Fiat cosa sta accadendo? Il titolo ha ritrovato gli 11 euro questa mattina, adesso è leggermente sotto. Sì, questa mattina il titolo ha ritrovato gli 11 euro, si trova sempre ai massimi da settembre 2008, continua, diciamo, il rally che aveva già manifestato venerdì. Gli operatori continuano a prestare molta attenzione a questa intervista che ha rilasciato Sergio Marchione al quotidiano canadese Globe and Mail, secondo cui Chrysler dovrebbe registrare un utile operativo entro i prossimi 2 anni, ma soprattutto già nel 2010 potrebbe esserci un collocamento di azioni in borsa. Questo cosa vorrebbe dire per Fiat? Fiat sostanzialmente non ha pagato nulla da un punto di vista monetario per rilevare la quota del 20% di Chrysler, ma se riuscisse a collocare una parte delle azioni in borsa, sostanzialmente ne trarrebbe una plusvalenza, uh-huh. Quindi questo ovviamente accresce il valore del titolo. Insomma, un mercato che guarda molto in avanti. Intanto questa tendenza positiva di Fiat porta con sé, come dicevamo prima, anche il socio di riferimento Exor più 4,69%, anche se dietro a questo rialzo, spiegano gli operatori, c'è la conferma da parte di John Elkann di un interesse della rete dei promotori finanziari Fideuram. Guido, ti lasciamo, ma ti ringraziamo soprattutto, buona giornata. Grazie a voi. E noi dalle 4 ruote di Fiat passiamo invece adesso alle 2 ruote, il tema di questa mattina di Salvadanaio. Dopo il successo degli incentivi per le biciclette, arrivano gli sconti per l'acquisto del motorino. Dal 5 ottobre, infatti, comprare un ciclomotore costa meno grazie ai 5,1 milioni di euro stanziati dal governo per il settore. Lo sconto varia dal 30% se elettrico all'8% in caso di Euro 2 a 2 tempi, con un tetto variabile dagli 850 ai 150 euro. In particolare, i motocicli elettrici sopra i 50 cm cubici potranno essere incentivati anche senza dover rottamare la vecchia moto. Sarà invece necessario demolire il vecchio modello se si vorrà ottenere l'incentivo per l'acquisto di un motociclo ibrido Euro 3. In ogni caso, la procedura da seguire è molto semplice. Basta recarsi da uno dei rivenditori abilitati, scegliere il modello tra quelli incentivati e compilare un apposito modulo di richiesta fornito dal venditore. A questo punto, l'incentivo viene riconosciuto direttamente al cliente come sconto sul prezzo finale. 800 24 00 24, numero verde per i nostri interventi. Stavi già dicendo qualcosa, Michela? Sì, era una scheda molto, molto chiara. Esatto. Gaia Romani, che ci pensa sempre a me e quindi ci rende sicuramente molto bello e chiaro il programma. Ti ringrazio. Allora, sì, noi abbiamo un po' riepilogato le caratteristiche necessarie per poter accedere al bonus motorino, ma vorremmo anche capire un po' a che punto è la situazione rispetto a tutti gli incentivi che sono stati erogati. Quante domande sono già state inoltrate al Ministero dell'Ambiente attraverso la rete ovviamente dei rivenditori? Claudio De Viti dell'ANCMA, rispetto alle biciclette, dicevamo, la corsa è stata sicuramente molto meno intensa. Noi abbiamo scaricato questa mattina con Michele lo stato degli incentivi dal sito del Ministero dell'Ambiente e quelli utilizzati fino a questo momento sarebbero circa 38.800 sui 5.100.000 appunto invece stanziati. Come mai secondo lei, ci può spiegare se dietro a questa, questa percentuale che sembra piuttosto ridotta, c'è qualche ragione particolare? Sì, la ragione è che a differenza delle biciclette le pratiche non possono essere completate immediatamente, perché quando si acquista un ciclomotore va comunque fatta la registrazione e va soprattutto completata la demolizione. Quindi fino a che il concessionario non ha tutti i documenti richiesti dal Ministero dell'Ambiente, compreso appunto la presa in carico del demolitore, non può portare a compimento la pratica. Questo significa che le pratiche oggi già completate, che sono circa un centinaio, sono di concessionari che avevano già preparato il tutto su richiesta dei loro clienti e hanno poi emesso la fattura appunto in questi primi giorni di vigenza dell'incentivo. Anche ma perché ce ne sono 10 volte tanto, certo, che hanno aperto nuove pratiche e che le concluderanno nei prossimi giorni. Probabilmente poi c'è anche un'altra ragione da tenere in considerazione: per l'acquisto delle 2 ruote, dei motorini, ci sono incentivi statali, una precedente campagna, c'è l'incentivo regionale della Lombardia, quindi sicuramente c'è bisogno anche, prima di partire con l'acquisto, di dare una controllata per verificare qual è l'incentivo che magari è migliore a seconda del mezzo che vogliamo comprare. Non c'è dubbio, però questi incentivi del Ministero dell'Ambiente sono dedicati specificamente ai ciclomotori, che erano rimasti tagliati fuori dagli incentivi previsti in finanziaria, che invece prevedevano di partire dai 50 in su, cioè a partire dai 125 in su fino a 60 kW di potenza, e non comprendevano quindi i cinquantini. La stessa cosa vale per la Regione Lombardia, anche in quel caso si parla di veicoli superiori ai 50 cc. Benissimo. Michela, tra l'altro noi oggi ci occuperemo solamente dei motorini, dei motocicli, però per quello che riguarda le biciclette so che tu hai accantonato da qualche giorno l'argomento, però alla fine sono andate tutte quante esaurite davvero le risorse disponibili? Le risorse sì, sono state tutte esaurite in pochissimi giorni, 4-5 giorni. Di fatto c'è ancora qualcuno che si sta recando nei negozi chiedendo gli incentivi, ma possiamo dire definitivamente che sono esauriti. Si aspetta solo di capire se ci saranno delle risorse residue di quelle destinate ai ciclomotori, appunto, per poi girarle sulle biciclette, ma non si può dire niente allo stato attuale. Infatti, anche se mi pare di ricordare, avendo letto un po' di cose su questo, che l'idea di questa nuova campagna di incentivi è quella di non mettere insieme, no? Assolutamente. Laddove ci fossero delle risorse residue è specificato che magari potrebbero essere utilizzate per le biciclette, ma adesso sono due percorsi completamente diversi, motorini e biciclette. Allora, l'ABC per usufruire dell'incentivo per i motocicli, cominciamo subito con il dire che tutto ciò che è stato acquistato prima del 5 ottobre non può essere oggetto di bonus e di sconto. Assolutamente, anche in caso di rottamazione, qualora ci fosse stata una rottamazione precedente, non ci sarebbero gli incentivi del Ministero dell'Ambiente. Dal 5 ottobre fino a esaurimento risorse, invece, si è partiti anche con le due ruote a motore. Gli incentivi per le due ruote questa mattina a Salvadanaio, 15 giorni fa ci siamo ampiamente occupati delle biciclette, incentivi andati letteralmente a ruba, adesso invece è partita la campagna per l'acquisto di motocicli a motore o elettrici, insomma incentivi di vario tipo, anche in questo caso varati da parte del Ministero dell'Ambiente. Come si fa la domanda per poterne usufruire e soprattutto a quanto ammontano questi sconti? Abbiamo dato qualche cifra nella nostra scheda, adesso ci ritorniamo, però direi di andare subito anche alle vostre domande all'800 24 00 24. Questa mattina ancora con noi Micaela Finizio, collega del Sole 24 Ore, Claudio De Viti, responsabile sezione ciclo dell'ANCMA. Sergio da Roma, benvenuto tra di noi. Buongiorno. Buongiorno Sergio. Sì, allora, io avevo una domanda alla quale però avete già risposto con la scheda iniziale, ed era relativa alla necessità appunto di avere un vecchio motociclo per accedere all'incentivo. Sì. Invece a questo punto vorrei farvi un'altra domanda ed è la seguente. Per quanto riguarda la demolizione del vecchio, è necessario farla all'interno, diciamo, dello stesso comune dal quale poi si acquista il nuovo motociclo? Perché mi spiego, io ho la residenza a Roma, ma il motociclo che vorrei rottamare in questo momento è fisicamente a Bari, quindi vorrei sapere se è possibile rottamarlo a Bari e comprare il nuovo a Roma. Allora, ecco, questa è una domanda assolutamente inedita alla quale non avevamo pensato. Claudio De Viti ci deve aiutare lei, credo, per questa faccenda. Sì. Innanzitutto va precisato che si possono demolire soltanto ciclomotori, appunto, per l'acquisto di un nuovo ciclomotore e non motocicli. Sì. Per quanto riguarda l'accordo non ci sono specifiche su dove si demolisce un mezzo, l'importante appunto è avere la residenza su dove viene registrato il nuovo veicolo. Il nuovo veicolo. E l'importante è che sia di propria proprietà, ovviamente, anche quello da demolire. No, così almeno sappiamo dare anche così un orientamento a Sergio qualora andasse da un rivenditore e gli ponesse il problema e il rivenditore non sapesse che cosa rispondere. Quello che serve senz'altro è il certificato di presa in carico da parte del venditore, del demolitore. Invece leggevo nella pagina che a questo argomento era stata dedicata da Affari Privati, curato appunto da Michela, lo scorso lunedì 28 settembre, quindi due lunedì fa, Michela, che ci sono in certi casi, come per esempio per la Lombardia, in cui è necessario avere la tassa di possesso del mezzo per poter usufruire dell'incentivo? Sì, stiamo sempre parlando dei motocicli, non dei ciclomotori, quindi di quelli di cilindrata superiore. La Regione Lombardia ha messo questo vincolo sulla circolazione. Entro l'anno precedente il veicolo doveva essere circolante, quindi serve il pagamento del bollo. Questo perché il senso è proprio quello di rinnovare il parco di ciclomotori e di motocicli che inquinano le nostre città. Quindi è l'unico incentivo tra quelli della finanziaria e quelli dell'ambiente che prevede la necessità di un pagamento del bollo. Allora, dicevamo prima che volevamo dare un po' l'ABC della procedura per poter far domanda per l'incentivo e soprattutto per poterla ottenere. Prima di tutto, ovviamente, è bene avere le idee chiare sul mezzo che possiamo comprare in relazione a quello che dobbiamo rottamare. L'elenco dei prodotti incentivabili lo troviamo anche sul sito del Sole 24 Ore, esatto, Michela. Abbiamo sì. il listino che si dovrebbe trovare, credo, anche sul sito del Ministero dedicato a questo, che è www.incentivimotocicli.it. E di fatto comunque il listino prevede, quello del Ministero dell'Ambiente, l'elenco di quasi tutti i motorini, di quasi tutti i cinquantini ormai presenti sul mercato, perché le case di costruzione hanno aderito quasi tutte. La premessa è sempre quella di avere in possesso un euro 0, un euro 1, quindi si parla di cinquantini vecchi, vetusti, che sono da rottamare, insomma. Tutti e 3.000 rivenditori presenti sul tessuto nazionale hanno aderito. De Vitio, possiamo anche avere a che fare con la sorpresa del rivenditore che ci piace, con il quale magari siamo particolarmente amici e che ci dice: no, magari preferisco farti uno sconto piuttosto che così fare la domanda per l'incentivo. Esatto, perché essendo liberi imprenditori nessuno li può obbligare a partecipare ad una campagna incentivi, ci possono essere delle eccezioni. Credo che comunque saranno ben pochi, perché perdono delle vendite in questo caso. No, io gliel'ho chiesto anche perché proprio in questo fine settimana una persona che ho conosciuto ad un convegno mi ha raccontato quello che gli è capitato volendo approfittare dell'incentivo per l'acquisto della bicicletta. Si è recato dal rivenditore, il rivenditore gli ha detto: guarda, ti faccio uno sconto sul prezzo che tu vedi esposto, e lui ha chiesto informazioni invece per approfittare dell'incentivo varato dal Ministero dell'Ambiente. Lui gli ha detto: guarda, allora in questo caso io devo fare riferimento al listino prezzi che il Ministero ha fissato, e applicando lì lo sconto in realtà tu vieni praticamente a pagare lo stesso prezzo. In realtà era come dire uno sconto vanificato. Qual è la confusione della quale sto parlando, che no. molti in realtà hanno così ci hanno presentato, anche ci hanno rappresentato? Noi siamo obbligati a presentare dei listini, a mantenerli fermi fino alla fine dell'anno, e nel caso soprattutto dei veicoli a motore sono i listini normalmente pubblicati su tutte le riviste specializzate. Nel caso delle biciclette è evidente che esiste una pratica commerciale dove già molti distributori potevano praticare degli sconti, ma questo non significa che non si debba partire dal prezzo di listino quando si fa un'operazione di questo tipo. Devono esserci dei dati certi. Allora, andiamo alla procedura, anzi andiamo ancora alle domande dei nostri ascoltatori, cominciando con Antonio, anzi ritornando, cominciando, abbiamo già cominciato con Roma prima. Antonio dalla provincia di Napoli. Buongiorno. Buongiorno e auguri per la trasmissione. Grazie. Le volevo porre questo quesito. Io nel 2007 ho già usufruito di un incentivo statale per un ciclomotore 50cc. Attualmente è incidentato, è incidentato per causa di un incidente stradale. Volevo chiederle se era possibile che io nel 2009, se ho facoltà nel 2009 di poter usufruire di un ulteriore incentivo. Quindi insomma, se si volesse liberarsi di questo incidentato, Antonio, visto che è già stato tra l'altro mezzo acquistato grazie ad una vecchia campagna di incentivi, si può ripetere l'operazione. Allora, De Viti. Se si tratta di un veicolo acquistato nuovo nel 2007 è certamente un euro 2, e quindi non si può demolire, perché lo spirito di questa campagna è proprio eliminare quelli più vecchi ed inquinanti per immettere nuovi veicoli in circolazione. A che tipo di epoche preistoriche apparterebbero quei mezzi di cui ci vogliamo liberare, De Viti? Guardi, fino al 99 erano tutti euro 0. Poi dal 99 fino al 2004 direi c'erano ancora gli euro 1 e poi basta, insomma. E quindi insomma nel 2007 era assolutamente improbabile che un rivenditore ci vendesse una cosa così vetusta come la stiamo definendo questa mattina. Cesare da Latina, buongiorno, vedo molto attivo il Centro Italia quest'oggi su questo argomento. Ci fa piacere, perché in realtà gran parte degli incentivi invece a quanto pare vanno quasi prevalentemente al nord. Michela, anche con le biciclette, lo 70% è stato erogato al nord. Quindi Cesare, buongiorno. Sì, buongiorno, signora Debra. Intanto vorrei fare un'osservazione sul fatto degli incentivi alle biciclette, che sono stati consumati in 3 giorni. Sì. Questo fa pensare sul successo e si spera che vengano ripetuti. Sì. Io stavo, mentre parlavo con il rivenditore, mi diceva sì, ci sono, in un certo momento mi ha detto no, sono finiti, proprio mentre fisicamente ero lì. Ma questo per la bicicletta, Cesare? Per le biciclette, sì. Per le biciclette. No, comunque a me il rivenditore ha detto, io ero andato a chiedere per una bicicletta elettrica, che comunque loro possono fare un 15% di sconto. Sì. Sul prezzo pieno di questo qui. Cesare, un po' quello che dicevamo prima, l'imprenditore può fare sicuramente quello che vuole, può rinunciare ai suoi margini decidendo o meno appunto di applicare invece i termini della campagna. Comunque su questo punto ci torniamo. La sua domanda intanto? Pronto? Sì. Sì, no, vorrei fare un'altra domanda sui motocicli. Certo. Io sono intenzionato, una Vespa vecchia da rottamare, lei ha letto pure il mio messaggio l'altra volta, quando avete fatto la trasmissione. Ah sì? Sì, però speravo che li prorogassero, perché magari adesso in inverno non è che uno tanto interessa. Ma se eventualmente non venissero tutti, esauriti tutti i soldi degli incentivi, è possibile che si proroghino? Questo bisognerà appunto vedere in relazione a come la campagna andrà. Però, De Viti, spieghiamo anche questa cosa. C'è un'altra campagna in corso statale, eventualmente. Esatto. La Vespa vecchia di Cesare che fine può fare? Immagino che sia maggiore di 50 cc o comunque anche se fosse 50 cc nel caso dei incentivi statali va benissimo lo stesso, si può sottoscrivere l'accordo quindi tra venditore ed acquirente entro il 31 dicembre 2009 e immatricolare poi un nuovo veicolo entro il 31 marzo 2010. Quindi secondo lei Cesare conviene più approfittare dell'altra campagna? Esatto, però è ovviamente per acquistare un veicolo superiore ai 50 cc. Insomma, bisogna conoscere un bel po' di cose, perché qua bisogna i termini si interessano. Sapersi orientare, sì. Infatti, come avete già ben capito, io non essendo un'esperta, Branco non è buio su questi argomenti. No, ma è complesso, è molto complesso. No, tra l'altro abbiamo a che fare adesso con tanti incentivi, anche per le quattro ruote. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive, visto che tu hai anche la tua pagina vecchia, Michela, qua mi aiuti tu, che mi scrive... ho un ciclomotore da demolire e vorrei acquistare un quadriciclo. Il quadriciclo elettrico, che diavoleria è? È uno dei modelli incentivati dal Ministero dell'Ambiente. Peraltro su tutti i modelli elettrici non c'è l'obbligo di rottamazione, per cui si può semplicemente acquistare godendo dello sconto e dell'incentivo. Anche perché qui, se no, che cosa rottameremmo? Assolutamente. Infatti, tra l'altro, quello per i quadricicli elettrici è uno degli incentivi maggiori, come per tutti i veicoli elettrici, perché il tetto massimo è fino a 1.300 euro, è il 30% del prezzo di listino. Quindi abbiamo risposto a Marco che chiedeva, avendo il ciclomotore da demolire e volendo acquistare il quadriciclo, può acquistarlo con lo sconto senza necessariamente demolire nient'altro. Eventualmente se demolisce il ciclomotore, se si demolisce solo, si ha qualche incentivo, Michela? Sì, magari chiediamolo a De Viti, comunque dovrebbe esserci un incentivo solo per la rottamazione, comunque non dovrebbe costare la rottamazione, dovrebbe essere suddivisa a metà tra il ministero e metà dal rivenditore. Dottor De Viti, ci diciamo dia un po' che solo la Regione Lombardia rimborsa per la sola rottamazione. Nel caso di Ministero dell'Ambiente è previsto semplicemente una compartecipazione a un costo forfettario di 30 euro nei confronti appunto del concessionario, metà lo paga il concessionario, metà lo paga il Ministero dell'Ambiente. Allora, spieghiamo bene anche come funzionano questi incentivi della Lombardia, anche su questo il Sole aveva dedicato appunto un bel due colonne nella pagina di lunedì 28 settembre, un contributo complessivo che ammontava qualcosa come oltre 3 milioni di euro, se non ricordo male. De Viti, di cui sì. 730.000 riservati all'acquisto di veicoli elettrici. Sì, c'è un parco da rottamare molto importante in Lombardia. Anche in Lombardia esistono ancora un 50-55% di Euro 0 ed Euro 1, nonostante sia una delle regioni più aggiornate sotto questo profilo. E qua i contributi a quanto ammontano, come funzionano? Contributi sono di 200 euro fino a 200 cc, sempre superiori ai 50, e invece arrivano a 400 euro fino a 400 cc, diciamo che comprendono la maggior parte degli scooter commercializzati e anche qualche piccola moto. E poi c'è il contributo, come dicevamo prima, di 80 euro per chi volesse invece rottamare solamente il ciclomotore o un motociclo Euro 0 e Euro 1 senza acquistare contestualmente un nuovo mezzo. Non solo, ma per i residenti nei comuni di area 1 e area 2 in Lombardia, cioè quelli dove c'è la situazione più critica dal punto di vista dell'inquinamento, hanno l'opportunità di demolire e ottenere quindi la somma degli incentivi regionali con quelli statali. Infatti credo che le risorse lombarde, come diceva, credo che il pezzo sia tuo Michela, sì, no? Sono destinate solo a quei comuni che risultano proprio più inquinati della regione. Esistono delle fasce proprio stabilite dalla regione, area 1, area 2 sono le zone più inquinate, sono 500 comuni mi sembra di ricordarmi. Infatti, tra l'altro, altre regioni che abbiano varate campagne di questo tipo non ce ne sono. A mia conoscenza, no. De Viti, le altre regioni non sono molto sensibili a questo tema, oppure sono evidentemente meno inquinate, forse, però voglio dire, mi riferisco tipo al Piemonte, ad altre regioni del nord, qualche problema di inquinamento ce l'avranno pur loro. Certo, ma in passato ci sono stati incentivi anche in Regione Lazio, piuttosto che direttamente dalla Municipalità di Firenze. e anche mi pare Bologna in passato aveva partecipato con qualche iniziativa, però qui dipende proprio dalle singoli amministratori locali. E dai soldi che hanno in cassa, esatto. Fondamentalmente. Abbiamo fatto, anche se Michela Finizio è decisamente più giovane di me, un tuffo nel passato, perché un ascoltatore ci scrive: posso rottamare un sì del 1988, e chi di noi non se lo ricorda nell'adolescenza? Il mio primo motorino. Il tuo primo, pensa tu, me lo ricordo anch'io che ho almeno 12-13 anni più di te, per acquistare una moto usata di un anno di vita. Allora qua la rottamazione di un mezzo vecchio per il contestuale acquisto di un mezzo vecchio De Viti mi pare che non ci sia posto in questa campagna. No, è esclusa, così chiama anche per le auto. Devono essere nuove immatricolazioni. Infatti. Moreno da Lucca invece ci scrive, non so a quale fine abbia questa domanda, ma magari cerchiamo di interpretarla, se è possibile identificare la proprietà del ciclomotore. De Viti. Sì, bisogna fare un'autodichiarazione, perché i vecchi ciclomotori avevano semplicemente un libretto, un certificato di idoneità tecnica dove non era precisato nessuna intestazione. Allora, la procedura per fare la domanda, visto che da mezz'ora che la annunciamo, almeno raccontiamola, altrimenti qua sembrerà che abbiamo fatto questa puntata per scherzo. Allora, lo spiegava Michela in questi articoli che ha scritto nelle settimane scorse, appunto dedicati a questo argomento. Il cliente interessato si reca da uno dei rivenditori abilitati, sceglie un modello fra quelli incentivati, è lui che deve compilare il modulo di richiesta dell'incentivo, non lo può fare il rivenditore per lui? Il modulo viene fornito direttamente in negozio, di fatto serve il codice fiscale, servono alcuni documenti anche come appunto quelli legati al motorino da rottamare che deve portare fisicamente il cliente. E quindi è poi il rivenditore che pensa anche a quello? Sì, la rottamazione è tutta affidata al rivenditore, poi se ne occupa direttamente lui. L'unica cosa appunto è avere i documenti del motorino da rottamare e il codice fiscale, ovviamente, che è alla base di tutti gli incentivi. De Viti, è sempre così che il rivenditore dove compriamo il mezzo nuovo per poter approfittare dell'incentivo si occupa anche della demolizione? Perché forse a volte non capita esattamente, o mi sbaglio? Ma come abbiamo visto prima, ci possono essere clienti che hanno il veicolo in un'altra città e possono pensare loro alla demolizione, però è importante che tutti i documenti poi siano prodotti dal rivenditore, perché è lui che compila poi la pratica di rimborso presso il Ministero. L'incentivo viene riconosciuto subito al cliente al momento dell'acquisto? Va inserito in fattura dopo aver calcolato l'IVA e tutti gli eventuali sconti o aggiunte di accessori che decide direttamente il venditore. Alla fine, come ultimo rigo, c'è il contributo del Ministero dell'Ambiente. Certo, poi il rivenditore appunto trasmette il modulo compilato al Ministero, registra la prenotazione del cliente ad un sistema informatizzato che, come abbiamo già avuto modo di raccontare l'altra volta, nel caso della precedente campagna in primavera era andato letteralmente in tilt, esatto. E adesso invece si è provveduto a rafforzarlo, no? A potenziarlo, che comunque per nel caso dei ciclomotori non sarebbe nemmeno servito il potenziamento, serviva soprattutto per l'assalto alla diligenza. Esattamente, che c'è stato per le biciclette, infatti. E poi sulla base di riepiloghi mensili, Michela, tu lo scrivevi, il Ministero procede ai rimborsi, quindi in automatico non li dà al rivenditore? E non in automatico, attraverso una serie di riepiloghi mensili andranno poi erogati ai rivenditori da parte del Ministero i fondi in base. No, vengono erogati alle aziende, sono poi le aziende che rimborsano i singoli rivenditori. Ho capito. Beh, allora tante volte magari. Vabbè, i rivenditori sono sicuramente molto disponibili, perché non vedo messaggi o non leggo di telefonate di ascoltatori che contestano il rivenditore che non si vuole impelagare nella richiesta dell'incentivo. Certo che però per loro è come dire anche un pochino complicato dal punto di vista burocratico, no, De Viti? Diciamo che è un'esposizione finanziaria, non c'è dubbio, per questo qualcuno è ancora un po' diffidente, però noi dobbiamo dire che il Ministero poi ha sempre onorato i suoi impegni, magari non nei tempi decisi all'inizio, ma insomma non ci sono mai stati soldi persi. Forse questo è il motivo per cui a volte qualche rivenditore preferisce fare lo sconto direttamente piuttosto che mettersi lì a compilare la pratica per fare la richiesta al Ministero. D'altra parte noi siamo costretti a seguire queste strade anche per una questione di controllo. Gennaro da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Bene, io ho un quesito da porre. Sì. In relazione alla possibilità di rottamare un motocarro, e se questa operazione darebbe l'accesso, diciamo, all'acquisto di un quadriciclo a motore endotermico, quindi a scoppio. Gennaro, praticamente due categorie simili, per quello mi sorge il dubbio. De Viti. Previsto. Cioè, che cosa può fare? No, non è prevista innanzitutto l'incentivo ad un quadriciclo termico, perché come abbiamo visto prima sono soltanto quelli elettrici, e non è previsto quindi nemmeno la rottamazione di un motocarro, che sicuramente non è un ciclomotore. Ecco, quindi Gennaro, niente, purtroppo non possiamo aiutarla per questa sua operazione di finanza un po' ardita, anche che voleva mettere in piedi. Allora, io intanto sto cercando di vedere se ci sono anche altre domande da parte di altri ascoltatori al 349-238-6666. Cara Debora, la mia Vespa è un 50, lo scooter nuovo è 250, non ho capito bene questo incentivo che dura fino al 31 marzo, puoi ripeterlo, ed è Cesare. Allora Michela, ci rifacciamo un po' di ABC all'inizio. Sì, lo sai che qua siamo obbligati, perché c'è qualcuno che ci ascolta sempre in corsa. Rifacciamo il punto dicendo che se in possesso c'è un motorino Euro 0, Euro 1, cinquantino, può sicuramente procedere alla rottamazione e richiedere l'incentivo per un modello ovviamente nuovo di un cinquantino, previsto dal Ministero dell'Ambiente, appunto l'acquisto di ciclomotori elettrici, ibridi e a due o a quattro tempi, quindi anche con un motore termico. Di fatto gli incentivi variano dall'8 al 30% a seconda della tipologia di motorino, ma alla base bisogna appunto rottamare il vecchio, e quella è la cosa principale. Tra l'altro stavo riguardandomi anche i tetti massimi degli sconti applicati. Abbiamo già detto prima che sul quadriciclo elettrico c'è il valore più importante, che è di 1.300 euro, uno sconto applicato del 30%. Poi qual è la graduatoria? Possiamo anche ridare anche le cifre? Certo, Michele. Ovviamente c'è una particolarità sui motocicli elettrici, sui quali fino alla fine dell'anno c'è la possibilità di sommare gli incentivi della finanziaria di 500 euro. Infatti, l'accumulabilità, ci siamo dimenticati questo aspetto. Tutti gli incentivi del Ministero dell'Ambiente non sono sommabili con gli incentivi della finanziaria, perché chiaramente non possono essere sommati e cumulati in alcun modo. L'unico motociclo che può avere questa somma sono i motocicli elettrici, sui quali sui quali fino alla fine dell'anno è possibile sommare 500 euro della finanziaria, sempre previa rottamazione del vecchio motorino, e il 30% del Ministero dell'Ambiente, il tutto per un massimo di 1.300 euro sempre di sconto. E invece De Viti, i fondi lombardi si possono intrecciare con quelli del Ministero, con quelli statali in qualche occasione, in qualche solo circostanza? Solo con quelli statali, perché quelli del Ministero dell'Ambiente esclude qualsiasi altra somma. Benissimo. Però mi scusi, l'ascoltatrice precedentemente parlava di incentivi statali più che di Ministro dell'Ambiente, quindi voleva rottamare la sua Vespa 50 per acquistare un 250, questo è sicuramente possibile. Naturalmente il contratto va fatto entro il 31 dicembre quest'anno. Gli incentivi della finanziaria. Sì. Esatto. Mamma mia. Allora, l'ultima domanda la segniamo a Carlo dalla provincia di Como, visto l'anno la lucidità di De Viti, che ovviamente la mia non può essere assolutamente su questo argomento. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia domanda era questa: io ho una moto 350 centimetri cubici del 78, è regolarmente tenuta con documentazione. Chiedevo se posso usufruire appunto di questi incentivi. Carlo, credo che non ce la possa fare, almeno fino a qua ci sono arrivata. De Viti, perché no? Perché gli incentivi finanziari per acquistare un veicolo superiore a 50 cc può rottamare tranquillamente una moto Euro 0. Non so se dal punto di vista del valore commerciale sia inferiore ai 500 euro che le fanno di sconto, perché anche in questo settore c'è ovviamente un mercato di moto d'epoca che è abbastanza interessante. Certo, lei dice magari lo potrebbe tenere ancora qualche anno e chissà che non si valorizzi dal punto di vista, sto. È già una moto è d'epoca, perché ha già più di 30 anni, quindi... Non ce lo ricordi che siamo così tanto indietro? Allora, io credo di aver terminato questa mattina. Ci sono ancora altre raccomandazioni da fare su tutta questa operazione? De Viti, lei che è un tecnico, ci può aiutare? Ci siamo dimenticati di dire qualcosa di importante ai nostri ascoltatori? Non mi pare di no, ma siamo sempre a disposizione anche come associazione. Certo. Possiamo dare anche, Michela, per concludere, i siti dove è possibile trovare, oltre che Motori 24, del Sole 24 Ore, ma ci sono anche quelli istituzionali? Sì, allora sullo speciale Motori 24 si può trovare proprio una sezione dedicata agli incentivi, dove ci sono anche tutte delle tabelle e i listini, insomma, dei prodotti incentivati. E poi il sito del Ministero dell'Ambiente, me lo ricordi, De Viti, perché non... Incentivi biciclette punto minambiente punto per le bici. Ah sì, sì, infatti, che show. incentivimotocicli.it che è uguale, esattamente, infatti potevo fare semplicemente il cambio di nome. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci risentiamo presto. De Viti, a presto, buona giornata. Arrivederci. E grazie, ciao, anche a Michela. Io ringrazio Gaia Romani e Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, stamattina Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Una volta tanto sono riuscita a ringraziare tutti. Torniamo domani, buona giornata.